Sezione dodicesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto dodicesimo. Sì tosto come l'ultima parola la benedetta fiamma per dir tolse, a rotar cominciò la santa mola, e nel suo giro tutta non si volse, prima ch'un'altra d'un cerchio la chiuse, e moto a moto, e canto a canto colse. Canto che tanto vince nostre muse, nostre sirene, in quelle dolci tube, quanto il primo splendor quel che rifuse. Come si volgon per tenera nube due archi paralleli e con colori, quando Giunone a sua ancella iube, nascendo di quel dentro quel di fuori, a guisa del parlar di quella vaga ch'amor consunse come suol vapori, e fanno qui la gente esser presaga per lo patto che Dio con noi pose del mondo, che giammai più non s'allaga. Così di quelle sempiterne rose volgeansi circa noi le due ghirlande, e sì l'estrema all'intima rispose. Poiché il tripudio e l'altra festa grande, sì del cantare e sì del fiammeggiarsi luce con luce, gaudiose e blande, insieme appunto e da voler quetarsi, pur come gli occhi ch'al piacer che i muove conviene insieme chiudere e levarsi. Del cuor dell'una delle luci nuove si mosse voce che l'ago alla stella parer mi fece involgermi al suo dove. E cominciò: l'amor che mi fa bella mi tragge a ragionar dell'altro duca, per cui del mio sì ben ci si favella. Degno è che dove l'un l'altro s'induca, sì che com'egli ad una militaro, così la gloria loro insieme luca. L'esercito di Cristo, che sì caro costò a riarmar, dietro alla insegna si movea tardo, sospeccioso e raro. Quando l'imperador che sempre regna provvide la milizia che era in forse, per sola grazia, non per esser degna, e, come detto, a sua sposa soccorse con duo campioni, al cui fare, al cui dire lo popolo disviato si raccorse. In quella parte, ove surge ad aprire Zefiro dolce le novelle fronde, di che si vede Europa rivestire, non molto lungi al percuoter dell'onde, dietro alle quali per la lunga foga lo sol talvolta ad ogni uom si nasconde, siede la fortunata ch'alla roga, sotto la protezion del grande scudo in che soggiace il leone soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta, benigno a suoi ed animici crudo. E come fu creata, fu repleta sì la sua mente di viva virtute che nella madre lei fece profeta. Poiché le sponsalizie fur compiute, al sacro fonte entra lui e la fede, usi dottar di mutua salute, la donna, che per lui l'assenso diede, vide nel sonno il mirabile frutto uscir dovea di lui e dell'erede. E perché fosse, qual era in costrutto, quinci si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. Domenico fu detto, ed io ne parlo sì come dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e familiar di Cristo, che il primo amor che in lui fu manifesto fu al primo consiglio che die Cristo. Esse fiate fu tacito ed esto, trovato in terra dalla sua nutrice, come dicesse, io son venuto a questo. O padre suo veramente felice, o madre sua veramente Giovanna, se interpretata val come si dice, non per lo mondo, per cui mo s'affanna di retro ad Ostiense e da Taddeo, ma per amor della verace manna, in picciol tempo gran dottor si feo, tal che si mise a circuir la vigna, che tosto in bianca se il vignaio è reo. E dalla sedia, che fu già benigna più poveri giusti, non per lei, ma per colui che siede e che traligna, non dispensare o due o tre per sei, non la fortuna di primo vacante, non decimas, quesunt pauperum dei, addimandò, ma contra il mondo errante licenzia di combatter per lo seme del qual ti fascian 24 piante. Poi, con dottrina e con volere insieme, con l'ufficio apostolico si mosse, quasi torrente ch'altavene preme, e negli sterpi eretici percosse l'impeto suo più vivamente quivi, dove le resistenze eran più grosse. Di lui si fecer poi diversi rivi, onde l'orto catolico si riga, sì che i suoi arbuscelli stan più vivi. Se tal fu l'una ruota della biga in che la Santa Chiesa si difese e vinse in campo la sua civil briga, ben ti dovrebbe assai esser palese l'eccellenza dell'altra, di cui tomma dinanzi al mio venir fu sì cortese. Ma l'orbita che fe la parte somma di sua circonferenza è derelitta, sì che è la muffa dov'era la gromma. La sua famiglia, che si mosse dritta co piedi alle sue orme, è tanto volta che quel dinanzi a quel di retro gitta. E tosto s'avvedrà della ricolta della mala coltura, quando l'olio si agnerà che l'arca gli sia tolta. Ben dico, chi cercasse a foglio nostro volume, ancor troveria carta o leggerebbe, i mi son quel ch'io soglio. Ma non fia da casal né d'acqua sparta, la onde vegnon tale la scrittura, ch'uno la fugge e l'altro la coarta. Io son la vita di Bonaventura del Bagno Regio, che nei grandi uffici sempre posposi la sinistra cura. Illuminato ed Agostin son Quinci, che fur de primi scalzi poverelli, che nel capestro a Dio si fero amici. Ugo da San Vittore qui con elli, e Pietro Mangiadore e Pietro Ispano, lo qual giù luce in 12 libelli. Natan profeta e il metropolitano Crisostomo ed Anselmo, e quel Donato che alla prim'arte degnò poner mano. Rabano è qui, e luce mi da lato il calavrese abate Giovacchino di spirito profetico dotato. Ad inveggiar cotanto paladino mi mosse la infiammata cortesia di fra Tommaso, e il discreto latino e mosse meco questa compagnia. Fine del canto 12.